So, Sarah's Italian is not good enough yet for her to understand everything, but fortunately Lorenzo can translate. Sì, Lorenzo può tradurre, meno male. Però abbiamo bisogno di nuove parole. Le ascolti e le ripeta, come al solito. Una cooperativa. A cooperative. Una cooperativa. Produciamo. We produce. Produciamo. Qualità. Quality. Qualità. Prezzi. Prices. Prezzi. Ragionevoli. Reasonable. Ragionevoli. Esportiamo. We export. Esportiamo. In tutto il mondo. All over the world. In tutto il mondo. That's quite a lot of new language to take in all at once, but don't worry. Lorenzo può tradurre. E adesso ascoltiamo il prossimo dialogo. Noi siamo una cooperativa di produttori e produciamo vino di ottima qualità a prezzi ragionevoli. We are a cooperative of producers and produce different kinds of high quality wine at reasonable prices. E esportiamo il nostro vino in tutto il mondo. And we export our wine all over the world.